Il vecchio scorbutico. C'era una volta, nella città di Mowark, un vecchio chiamato Signor Raggio. E a differenza del suo nome, non c'era raggio di luce nel suo comportamento. Si lamentava delle cose più piccole e incolpava tutti coloro che lo circondavano, tranne se stesso, per tutte le cose sbagliate che succedevano nella sua vita. Un giorno, mentre stava uscendo di casa per andare a fare una passeggiata nel parco, sentì la sua vicina, l'anziana Miss Kyle, urlare al suo cane. Perché non mi lasci fare il mio lavoro? Fammi pulire la casa! La smetti, vecchia! Sempre a urlare e gridare! Non riesco nemmeno a dormire la notte con il tuo urlo continuo! Furioso, il signor Raggio andò via per andare al parco. Quando raggiunse il parco, si avvicinò alla sua panchina preferita e tirò fuori il giornale. Brontolando sottovoce, lo aprì di scatto. Finalmente posso stare in pace! Quando iniziò a leggere il giornale, sentì qualcuno chiamare. Mi scusi? Mentre abbassava il giornale, trovò un bambino in piedi davanti a lui. Si chiamava Tim. Sì? Mi scusi, signore, sarebbe così gentile da comprare dei biscotti da me? Ascoltami, ragazzo, sto già passando una brutta giornata. Per favore, non peggiorare le cose. Signore, solo una scatola, per favore. Non voglio nemmeno un singolo biscotto. Vai via da qui. Il piccolo Tim scappò via. Il signor Raggio si alzò dalla panchina e si diresse verso la fontana. Perché non ci sono più persone come me? Perché tutti devono essere così, così fastidiosi? Proprio allora, da dietro la fontana, un giovane vestito di bianco sbucò fuori e gli si avvicinò. Perché non posso avere un momento per me? Perché così? Calmati, signor Raggio. Sono qui solo per aiutarti. Chi? Chi sei? E come fai a sapere il mio nome? Sono l'angelo della realizzazione. Puoi chiamarmi Angie. Angelo di cosa? Sei della vicina compagnia teatrale fuori dalla mia vista! L'uomo era davvero un angelo e per mettersi alla prova schioccò le dita e un paio di bellissimi stivali d'argento apparvero dal nulla. Il signor Raggio era scioccato. Cosa cielo, sei un angelo? In effetti lo sono e come ho detto sono qui per aiutarti. E come? Prendi questi stivali. Ogni volta che sei arrabbiato con qualcuno e desideri che si comportino in modo più saggio, indossali. Gli stivali, esattamente in quel momento, ti condurranno alla vita di quella persona e ti metteranno nello stesso punto. Se agisci in modo più saggio, sarai ricompensato con oro, argento e diamanti. In altre parole, gli stivali ti metteranno letteralmente nei panni di qualcun altro. Il pensiero di oro, argento e diamanti lo tentò molto, così accettò subito. Ma ricorda, se in qualsiasi momento ti renderai conto che eri tu quello in errore, gli stivali ti riporteranno in te stesso. Sono io colui che ha colpa, è impossibile! Molto bene. Detto questo, l'angelo scomparve. Il signor Raggio prese gli stivali e tornò a casa. Il giorno dopo, quando si svegliò, sentì le urla della sua vicina, l'anziana signora Kyle. Perché non mi lasci fare il mio lavoro? Per il bene degli angeli, fammi pulire la casa! Udendo le sue grida, il signor Raggio si arrabbiò molto e si ricordò del paio di stivali d'argento. Li indossò subito e allacciò l'ultimo laccio. Si svegliò nella casa della signora Kyle. Wow! Questa cosa funziona davvero! Proprio in quel momento il cane iniziò a giocare con lei. Vattene! Io... Liberandosi dal cane, andò direttamente in cucina. Oh, sono molto affamata. Vediamo cosa la vecchia signora... Trovò un sacco di fagioli. Oh, fagioli... Fammeli cuocere subito. Mentre versava i fagioli in una ciotola, si rese conto che il cane le stava tirando il vestito. Che cosa c'è? Lasciami in pace! Ma il cane non l'ascoltò. Si aggrappò al suo vestito e improvvisamente l'intera ciotola di fagioli le scivolò dalle mani e cadde a terra. Questo la fece arrabbiare moltissimo e urlò a squarciagola. Perché non mi lasci preparare il cibo? Per il bene degli angeli, fammi cucinare qualcosa! Sto morendo di fame! E proprio in quel momento sentì la sua voce provenire dalla casa accanto. La fai finita, vecchia? Sempre a urlare e gridare! Non riesco nemmeno a dormire la notte con il tuo urlo costante! I suoi occhi si spalancarono nella realizzazione e in un secondo il signor Raggio era tornato a casa sua. Una lacrima cadde giù dai suoi occhi. La asciugò immediatamente. No, no! Non posso sbagliarmi! Quell'angelo mi ha ingannato! Dicendo questo, uscì di casa, senza accorgersi di avere ancora gli stivali d'argento indosso. Quando raggiunse il parco, si sedette nel suo solito posto e aprì il giornale, quando sentì di nuovo la voce del piccolo Tim. Mi scusi, signore, la prego, potrebbe acquistare una scatola di biscotti oggi, per favore? Non li voglio! In un lampo di luce, il signor Raggio era ora Tim. Svegliati, Tim. Aprì gli occhi e vide di fronte a lui una donna che sembrava molto pallida. Esci e vendi biscotti, caro. Non potrò andare neanche oggi. Non disse nulla, ma si sdraiò a fissarla. Sbrigati e per favore vendi abbastanza biscotti in modo che oggi possiamo pagare il padrone. Altrimenti non avremo un posto dove stare. A questo punto le lacrime gli uscirono dagli occhi quando si rese conto di aver sbagliato di nuovo. In un secondo era tornato al parco, seduto sulla panchina. Il suo viso rabbrividì mentre le lacrime gli regavano le guance. Alzò gli occhi e vide il piccolo Tim allontanarsi a testa bassa. Si alzò e gli corse dietro. Ehi, amico, aspetta! Mentre Tim si girava, il signor Raggio gli corse incontro e si chinò per abbracciarlo. Mi dispiace così tanto, amico. Va bene, non ti piacciono i miei biscotti? Oh, bugie, amo i biscotti. Dammi tutti quelli che hai e ti pagherò per tutti i biscotti che potrai preparare per l'intero mese. Ecco, prendi tutti i soldi e portami più biscotti domani. Felice, il piccolo Tim lo baciò sulla guancia e gli diede tutti i biscotti che aveva. Proprio in quel giorno, il signor Raggio andò a casa della signora Kyle e le diede tutti i biscotti. Oh, come mai tutto questo? Oh, beh, diciamo solo che non sono stato un buon vicino e questo è il mio modo di chiedere scusa. Sei troppo gentile, Raggio. Oh, questo è solo l'inizio. E così il signor Raggio passò dall'essere un uomo molto arrabbiato a una persona gentile e generosa. Non gridò mai più a nessuno. Lui e Tim diventarono migliori amici. E per quanto riguarda il paio di stivali, beh, li ha messi proprio lì nel suo salotto come promemoria del fatto che è importante essere comprensivi. E prima di giudicare qualcuno, dovremmo sempre metterci nei loro panni.